Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buon sabato sera a quanti ci ascoltano e buonasera ad Alberto Quadrio Curzio. Buonasera. Alberto Quadrio Curzio, professore di economia all'Università Cattolica, ha scritto un libro, Economia oltre la crisi, un libro intervista con Stefano Natoli, con prefazione di Romano Prodi, una riflessione sul liberalismo sociale, su come stiamo andando, di dove va l'Italia. Ecco, un libro direi impegnativo e anche ambizioso, oltre la crisi. Già nel titolo si vede che forse la crisi è superata, ma dobbiamo ancora raccogliere tutti gli effetti. Professor Quadrio Curzio. Sì, esattamente quello che dice lei, forse la crisi è superata, ma nello stesso tempo al titolo si può porre anche un punto interrogativo, al quale punto interrogativo il libro, ovviamente in modo molto approssimato, cerca di rispondere. E l'interrogativo è: come possiamo superare davvero questa crisi, che è certamente la più grave che l'economia europea ha affrontato da quando esiste l'Unione e prima ancora la Comunità? La risposta è articolata su vari profili, non solo i profili economici, ma anche i profili sociali e i profili istituzionali. Naturalmente nella consapevolezza che l'Italia è anch'essa in crisi, ma che da sola non uscirà da questa crisi. Ecco, nel libro si parla di liberalismo sociale, un po' il progetto attorno a cui si sviluppa la sua riflessione. Che cosa si intende per liberalismo sociale? È un po' quell'economia sociale di mercato di cui si è parlato nel secondo dopoguerra? È un po' una terza via tra il capitalismo e il socialismo? Per liberalismo sociale io intendo qualcosa di molto simile all'economia sociale di mercato, ma anche con una propria autonomia. Intendo cioè che in una democrazia sviluppata come è quella europea ci debba sempre essere una corretta proporzione tra le istituzioni che producono beni pubblici a carattere universale e che comunque devono produrli con efficacia ed efficienza, ma che devono rimanere beni pubblici, che non potranno mai essere delegati a funzioni mercantili come la giustizia, la difesa e molti altri servizi, la società che produce beni sociali, che debbono essere conseguiti senza la realizzazione di un profitto, ma anch'essi con efficienza ed efficacia, e soprattutto con partecipazione, perché la società è il momento cruciale di una democrazia, e infine l'economia, che certamente è mercato, ma non è solo mercato, perché deve avere degli orizzonti temporali sufficientemente lunghi per fare dei buoni investimenti che generino effettivo sviluppo. Ecco, quindi un progetto, diciamo, ambizioso, perché comprende un po' tutte le parti sociali, tutte le dimensioni della società e della persona. Ma da che cosa si può partire per attuare un progetto di questo tipo, tenendo conto appunto che veniamo da anni difficili, da anni di crisi, da una prospettiva di crescita di cui si parla tanto, ma di cui non si vedono per ora gli elementi che possono sostenerla? Ci sono riforme possibili, riforme da attuare che lei vede nell'immediato futuro? Ma io credo proprio di sì. Innanzitutto, guardando alla società italiana, io credo sia molto importante che gli italiani stessi riconquistino delle convinzioni che essi hanno vissuto molto bene negli anni passati e che questo benessere può essere mantenuto solamente riacquistando una capacità di sobrietà, una capacità di guardare a lungo periodo, una capacità di intraprendere, ma nello stesso tempo di non fare dell'intrapresa uno strumento per un mero successo di breve termine. Dunque io credo che il profilo della convinzione, che si potrebbe anche chiamare etica civile, è estremamente importante. Un secondo profilo è quello delle riforme che possono passare attraverso la legislazione, ma anche delle riforme che possono passare attraverso quell'etica civile che rende la normazione più efficace. Una normazione senza una consapevolezza della sua utilità e dell'etica civile è una normazione che finisce solo ad aumentare la quantità di leggi. Infine, terzo ed ultimo passaggio, ma non certamente unico, la necessità di rivalutare il ruolo dell'impresa, il ruolo dell'imprenditore e di mantenere quella coesione sociale che fa dell'impresa stessa, come peraltro è dimostrato da molte imprese italiane di grande successo, soprattutto imprese medie e imprese medio-piccole, che fa della coesione sociale anche un bene e un risultato che l'impresa stessa può produrre. Quindi coesione sociale come via del dialogo tra le parti e non come via per evitare il dialogo e schierarsi sui lati dei conflitti. Ecco, il libro peraltro parla anche molto ampiamente del tema europeo, del ruolo dell'Europa che dovrebbe avere, che potrebbe avere in questa particolare fase. Ecco, professor Quadrio Curzio, come vede la possibilità che l'Europa si dia una mossa sul fronte della crescita? Questo è veramente il punto importante. Direi che tutta la riflessione del volume del saggio e che senza una forte linea decisionale europea per rilanciare la crescita in modo comune l'Europa stessa rimarrà in una recessione pesante per parecchi anni. Da questo punto di vista io credo che nei 5 anni ormai di crisi, ci avviamo al 5º, l'Europa sia stata largamente carente, decisioni ritardate che hanno aumentato i costi della ristrutturazione per alcuni paesi, incertezze in molti casi, una posizione tedesca difficilmente comprensibile. Ebbene, nel libro si auspica il ritorno a un'Europa delle origini, a un'Europa anche del Jacques Delors, che propose a suo tempo investimenti infrastrutturali europei finanziati da obbligazioni europee per fare dell'economia continentale europea un'economia capace di crescita sostenibile. E sotto questo profilo, in un elaborato pubblicato su Sole 24 Ore a firma di Prodi e mia, abbiamo proposto nell'agosto del 2011 l'emissione degli Euro Union Bond con garanzie reali per tranquillizzare i tedeschi, per accogliere capitali finanziari per fare grandi investimenti europei a fini di sviluppo. E credo che questa sia la sola possibile strada che l'Europa può adottare per uscire da questa crisi in modo stabile. Ecco, Romano Prodi, che peraltro ha scritto anche la pubblicazione di questo libro, nell'introduzione afferma peraltro che lo strumento più importante per il rilancio economico è la semplificazione delle norme e la loro veloce applicazione da parte della burocrazia, anche perché, ammesso che ci possano essere i capitali, poi si tratta anche di farli fruttare, di metterli a disposizione appunto dell'economia per realizzare le infrastrutture. In Italia sembra che uno dei problemi più grossi sia quello della semplificazione, che peraltro è stato messo al primo posto dal nuovo presidente della Confindustria Giorgio Squinzi. Semplificazione necessaria, professor Quadrio Curzio? Credo che questa sia la riforma più urgente in Italia, perché tutti gli imprenditori, ma anche gli studiosi, danno conto che quanto negli altri paesi per adempimenti si impiega in termini di tempo e di risorse finanziarie, in Italia bisogna sempre moltiplicare almeno per 5, e questo è un handicap, un gravame sul sistema Italia, sulle imprese e un deterrente degli investitori stranieri verso il nostro paese davvero enorme. La mia impressione è che semplificazione e riduzione della burocrazia vadano di pari passo, perché se c'è tanta burocrazia, questa deve pur sempre mantenere il proprio ruolo e per mantenere il proprio ruolo tende a complicare le norme, non a semplificarle. Così come bisogna anche dire che la semplificazione è essenziale anche nel sistema tributario, perché risalendo indietro ai grandi studiosi di scienza delle finanze, da Luigi Einaudi a Ezio Vanoni, ma prima ancora, il motto che essi sempre proponevano è che le norme devono essere semplici e stabili, perché solo così si riesce anche a snidare l'evasione. Norme complicate e instabili favoriscono l'evasione, non snidano l'evasione stessa. E già Luigi Einaudi, forse più di 60 anni fa, diceva che molto spesso sembra che il fisco, più che cercare soldi ai contribuenti, cerchi di complicare loro la vita. E quindi questo è indubbiamente l'insegnamento che ci viene dai grandi e che purtroppo lo Stato spesso non ha messo in pratica. Economia oltre la crisi. Abbiamo parlato con Alberto Quadriocrudo, che ringraziamo. Buonasera, professore. Buonasera a voi, grazie dell'intervista. Grazie. Ricordo il libro Economia oltre la crisi, edito da La Scuola. Sono 207 pagine per 12,50 euro. Così come ringrazio Roberto Scartritti in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. L'appuntamento è per sabato prossimo.